Siamo in missione per conto di Dio. "24 Mattino" di Luca Telese. Io sono prigioniero di una banda di criminali che ho qua di fronte: Luca, Antonella, tutti, Alessandro. Nuovo scandalo sessuale del giorno potremmo essere noi. Direbbe Lotito, la contestazione hegeliana è affermazione. In Sicilia uno per andare da Palermo a Catania ci mette tanto quanto uno ci mette da Malpensa ad Abu Dhabi. No, ma dobbiamo festeggiarlo. Il figlio Gianino ha detto stronzo. No, è un processo creativo. Quattro figli, quando si mettono assieme e cominciano a contestarmi tutti assieme, sono sconfitto in partenza. Non è vero che i giovani vogliono, il problema è che non li si vuole pagare. Sono cose un po' complicate, rotto dei coglioni. Quanto stai spendendo di pannolini? Non ho mai fatto un calcolo, perché se no dal sesto piano mi butto giù. Più pannolini per tutti. Sono in giravoce, in diretta, sì, sulla radio. È in diretta, sì, come certo, si controlla. Per quante volte abbiamo sentito la rivoluzione del ferro? Vedete quanto è fantastico la diminuzione delle tasse in Italia? Il nostro presidente catalano, lo schettino di Barcellona, la Catalogna, l'uomo che ha fatto peggio dei Savoia. Questi figli, quando crescono, hanno uno strano paradosso: quando ti pizzicano ti stanno regalando una carezza, e quando ti insultano, io spero, riconoscono la tua autorità. Popolo dei Giosvegli, buongiorno, e di nuovo qui, in un nuovo giorno di lutto, in un nuovo giorno di strage, di nuovo qualcuno che cerca di attentare alle vite, di nuovo il terrorismo islamista. E poi tante cose che succedono: Trump con il giallo che ormai in maniera più insistente riguarda i suoi collaboratori e forse lambisce persino lui, e poi la passeggiata a Bruxelles molto amara del leader catalano in fuga. E allora è qui con me oggi Fulvio Abate, buongiorno. Buongiorno, non sono a Bruxelles, ma sono niente meno che a Palermo. Sei scappato a Palermo per organizzare la secessione. No, e questa è la verità, è questa. La cosa incredibile è che, diciamo, potrebbe essere la nuova grande occasione dell'indipendentismo siciliano, ma invece non vedo bandiere giallo-rosse sventolare, cioè i colori della Sicilia, della bandiera siciliana. E quindi... Meno male. Allora iniziamo il racconto di questa giornata, che dovrebbe essere una giornata di festa, ma per noi è una giornata necessaria di racconto. Tantissime le cose sono accadute, anche comprese le inchieste nuove su Berlusconi, compresi i dibattiti sulla finanziaria, da cui pensate spunta fuori persino un bonus TV. E allora iniziamo, entriamo dentro il fritto misto. Let me be clear that based on the information we have at this moment, this was an act of terror. And la voce bella di Bill de Blasio, il sindaco italo-americano di New York, è lui che ha confermato al mondo ieri, più o meno alle 11 ore italiana, è stato un attacco terroristico. Cancelleri, sentite Cancelleri, perché c'è tutta una polemica, avremo fra l'altro Rosato oggi stamattina, sul tweet di un suo assessore. La notizia del giorno è un tweet infelice di Angelo Parisi. La cosa che mi fa arrabbiare di più è che i media nazionali lo sbattono in prima pagina proprio nel giorno in cui Berlusconi e Dell'Utri vengono indagati per le stragi di mafia del 93 che riguardano proprio la nostra terra. E Angelo Parisi è un ingegnere ambientale, ha delle grandi competenze. Io gli ho chiesto di fare questo, di occuparsi dei problemi dei siciliani. Ho capito, caro, però se quello dice che vuole bruciare vivo qualcuno, alle volte veramente io rimango stupito, con tutta la simpatia, Cancelleri. Non lo so, prova a sostenere un parere diverso, Fulvio, così riequilibriamo. No, io che cosa ha detto questo gigante? Ha detto che voleva bruciare vivo Rosato per la sua legge. Vabbè, questo è un problema di selezione di intelligenze. Evidentemente, così, insomma, non Dici niente da fare, non riesci a sostenere una posizione assolutoria. Alfano, no, è impossibile. Alfano che se la prende coi 5 Stelle, eh? È tutto siciliano questo fritto stamattina. Io vedo che a fare la predica sono quelli del Movimento 5 Stelle che, se contate il numero dei sindaci di città importanti che loro hanno, il numero di indagati, sul piano percentuale hanno un record mondiale di indagati. Io credo che oltre a sospendere la predica dovrebbero pure smontare il pulpito. E vabbè, Alfano prova ad infierire. Gnocchi presenta il megafono di Di Battista. È una bella battuta da Di Martedì. Senti, Gene Gnocchi. Di Maio è qui per presentarci il nuovo regalo di Natale proprio del suo amico Di Battista. Ve lo faccio vedere, è il microfono Di Battista, è il primo megafono a banalità incorporata. È registrata la voce di Di Battista, così non devi neanche fare la fatica di dire banalità tua. Se spingi il tasto 1 dice vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Se spingi il tasto 2 dice onestà, onestà. Se spingi il tasto 3 dice la gente è stufa solo di Mussolini e De Gasperi, chiedono la fiducia. Ha anche il GPS incorporato, così siete sicuri di non sbagliare piazza. E vabbè, questa è la satira, Gene Gnocchi con la sua simpatia, perché non è mai cattivo fino in fondo. Fulvio, il caso di Milena Gabanelli, senti come si entra dentro questa storia. Lasciare il servizio pubblico per me è stata una sofferenza enorme. Penso di non aver avuto scelta, proprio per la mia dignità professionale. Se mi proponi lo sgabuzzino, mi hanno chiesto di restare fino a ieri, dicendomi che potevo tornare anche a Report. Secondo te, Fulvio Abbate, quanto danno fa alla RAI questo strappo? Fa un danno, perché diciamo che Report era uno dei cavalli vincenti. In questo momento la RAI deve mettere pezze da tutte le parti in termini di numeri, però c'è una ragione superiore, evidentemente, diciamo, Milena Gabanelli, che ha tutta la mia vicinanza e solidarietà, a un certo punto, come avveniva con Galeazzo Ciano al tempo del fascismo, qualcuno ha detto questa me la sbatti fuori, ed è stata messa nelle condizioni di non poter nuocere. Fare quello che... Sì, addirittura sì, Puigdemont non sono a Bruxelles per chiedere asilo politico. I'm not here. La prima pregunta: non sto qui per pedir asilo politico. This is not a Belgian question. No es una cuestión belga. Sto in Bruxelles come capitale d'Europa. Sono qui per lavorare in sicurezza e libertà nella capitale d'Europa. Tante scritture oggi riguardano questo tema. Un bel pezzo di Concita De Gregori, in cui alla fine sembra però che il leader catalano sia finito in un tunnel, tant'è vero che ora dice che vuole tornare. Crozza, ma tu sei troppo grande, Crozza, sulla Fedeli, sulla Fedeli, sulla Fedeli. Buonasera, ministra Fedeli. Buonasera. Buonasera, posso chiederle, sì? Chi l'ha accompagnata qui? Posso? Io sono venuto... Non è complicato, No. È venuto qui col genitore 1, col genitore 2, col nonno 3. Ma non sono venuto con nessuno, a parte che le medie, io, scusi, ma le ho finite da un pezzo. Beato lei, no? Beato, è una cosa... Vabbè, sono tre battute che ti inchiodano chiunque alla croce, eh? Tu da chi sei venuto accompagnato stamattina a Radio 24, Fulvio? Io oggi è il giorno dei morti, quindi ho chiamato i miei genitori che... stanno in un cimitero non lontano da qui e stanno lì seduti in questo momento, insomma, mi fanno da tutori, insomma. Non posso che dire una battuta così pessima, essendo oggi il giorno dei morti. Beh, ma anche effettuosa, penso, per la tua storia. Sarcastica, invece, per ciò che riguarda Puigdemont, la cosa che a me ha più stupito, che alle pareti dello studio del suo assessore, diciamo così, ci stavano due poster di Tintin. Non so se avete visto. Ma c'è i fumetti e la leggerezza di Tintin, vero? In altri tempi, nei tempi, diciamo, della guerra civile spagnola, ci sarebbero state ben altre immagini. Certo, insomma. La milizia, la guardia repubblicana. Esattamente, così come adesso lui sta a Bruxelles. E Bruxelles è la patria dell'editore di Tintin, Casterman. Ho capito, ti sembra un fumetto. Però preparati, perché ora c'è la vera notizia che incide sul costume, sulla carne, sul senso comune di questo paese. Cecilia Rodriguez ha lasciato il fidanzato in diretta, momenti drammatici al Grande Fratello VIP. Io ti dico, tu vai avanti, segui i tuoi sogni, non mi aspettare in questo momento. Pensa a te stesso in questo momento, come sto facendo io. Forse è la cosa più sbagliata, forse non lo è. Non è una decisione tra Treta e Ignazio, perché non è questo il mio problema. Io ti sto dicendo che io dentro questa esperienza mi sono riguardata, mi sono ascoltata e ho capito delle cose. Non che mi sono innamorata di Ignazio. Non è questo. No, neanche un'infatuazione, una sbandata. No. Una merda. Sono una merda. Ignazio Moser, figlio del grande ciclista, io ignoravo anche che fosse esistente sul mondo, è stato lasciato da Cecilia Rodriguez. Fulvio, riusciremo a metabolizzare anche questo lutto? Ma questo è il paradigma di questa storia, è quando tu andavi a fare il servizio militare, perché ce l'aveva obbligatoria, e a un certo punto lei si metteva con un vigile urbano, quindi uno che aveva la divisa, la tua fidanzata, quindi vivevi il doppio scotto dell'abbandono e in più che la tua donna andava con uno con una divisa, che era un'immagine di vessazione. Oppure, altra immagine di parola, quando d'estate ti rompevi una gamba, ti mettevano in trazione e venivi mullato mentre stavi nel pio nosocomio con la gamba sollevata, diciamo, fissata da un perno. È la storia del mondo e dell'amore che si ripete sempre identica a se stessa, insomma. Con la differenza che in questo caso ci sono le telecamere a mostrare il lavoro del CTO. Del CTO. Senti, oggi sul Corriere della Sera Gramellini fa un fondo su un insegnante che si è visto lanciare addosso un cestino, una signora, da parte dei suoi alunni, ovviamente tutto filmato, e non ha neanche reagito. Dice Gramellini: non ti voglio criticare, ma ti vorrei abbracciare. Tu che pensi? Avrei dovuto essere presente, non penso nulla, nel senso che ognuno reagisce come crede per limitare i danni, insomma, e quindi non so, non riesco a capire perché Gramellini voglia abbracciarla. Cos'è, diciamo, un istinto gandhiano, oppure qualche misura ritiene che si debba trarre un insegnamento filosofico, pedagogico da questa storia? Allora, ricordiamo che l'altra grande notizia è quella su Berlusconi e Dell'Utri indagati, un insospettabile, certo di qualunque simpatia berlusconiana, come Michele Serra, cesella un corsivetto molto scettico su Repubblica, dicendo: non so se è più difficile immaginare che Berlusconi fosse capo della mafia nel 93 o leader del centrodestra nel 2018. Sembra sarcastica, ma in realtà è come dire: questa inchiesta è fuori ogni tempo massimo. Sei d'accordo? Assolutamente, perché darà carburante a una controbattuta dei sostenitori di Berlusconi, che diranno: giustizia a orologeria. E quindi, insomma, diciamo, le forze della fantasia vengono sconfitte per l'ennesima volta, grazie, diciamo, a un procedimento della magistratura, di un giudice, insomma, che secondo me avrebbe potuto, diciamo, risparmiarci questo ennesimo, diciamo, crimine contro il fantastico. Allora, un messaggio che già mi arriva, e quindi bene le vostre chiose: 349-238-6666, ma anche consigli di navigazione, li chiamo io, siete interattori, dice Oscar Giannino. E un ascoltatore interattore mi dice: scusi Terese, ma due parole su De Luca che voleva uccidere i grillini e la Bindi va detta. Faccia una corretta informazione, ma ne abbiamo parlato quando De Luca disse questa solenne scemenza. Lo abbiamo commentato, però noi commentiamo le notizie del giorno. Non è che per dire che un grillino ha detto una fesseria dobbiamo per par condicio cercare una fesseria di De Luca, il che non è neanche difficile. No, questo perché, sai Fulvio, c'è ognuno ha la sua informazione, ognuno ha i suoi santi, se mi consentite la parola blasfema, e tutti vogliono solo sentir parlare male della squadra avversaria. Ieri qualcuno si è seccato perché parlavamo della Boschi, Beh, Boschi ha fatto una cosa. Oggi parliamo di questo signore e scusate, ma lo dico, ho criticato ferocemente Rosatello, ma uno che dice ti voglio bruciare al capogruppo del PD, come altro puoi definirlo se non un pirla? Fulvio, non so su cosa vuoi intervenire, su cosa ti abbia colpito delle altre tante cose che ci sono sul tavolo. Trump ti preoccupa? No, nel senso è la stessa cosa, quello che dicevamo prima su Berlusconi, nel Watergate di cui abbiamo memoria, diciamo, chi ha un'età fu un vero terremoto politico, ci hanno fatto pure un film. Immaginare che la questione Trump possa risolversi con un impeachment e invece in questo caso sembra abbastanza improbabile, anche se lo stesso partito repubblicano si interroga su come sia stato possibile che i propri candidati si siano ritrovati bruciati da questa specie di pupazzone. Fra l'altro la cosa singolare è che il famoso negozio di giocattoli planetario, dove il Trump avrebbe dovuto essere un pupazzo assai venduto, Faust Schwarz, per chi è stato a New York sulla Quinta Strada lo rammenta assolutamente, ha chiuso da anni. Ciò nonostante, Trump, benché assomigliasse a un pupazzo di Faust Schwarz, ha vinto. E questo è l'ennesimo paradosso che noi dobbiamo riscontrare. E quindi è folle immaginare ogni volta che ci sia una leva giudiziaria che mette in discussione un voto come dire, già consolidato, metabolizzato nel paese. C'è la grande polemica sugli impresentabili, un'intervista sul fatto di Mannino, che pensa il vecchio Calogero Mannino, ex ministro democristiano, due volte processato per mafia, due volte assolto, va detto, è un po' bacchetta Musumeci e dice liste sporche e impresentabili, Musumeci li conosce tutti. Questo sarà il grande tema, ma incide lì in Sicilia, Fulvio, secondo te questo tema, impresentabili tuoi, miei, di tutti? No, non incide assolutamente. Zero. Zero. Il costume perché appunto diciamo questa, diciamo, in Sicilia si sa che la terra non è rotonda e che è l'iperbole che vince sulla linea retta e quindi no, non incide perché innanzitutto perché la Sicilia ha inventato la mafia, gli ebrei hanno inventato il comunismo, che significa un dispositivo culturale politico che serve per riscattare i poveri. In Sicilia noi abbiamo inventato invece la mafia, ossia dei poveri che inventano un dispositivo affinché dei poveri mortifichino delle persone ancora più povere. E quindi chi vuoi che si stupisca? Pensi davvero che abbiamo le strade, ma hai già detto una sentenza. Abbiamo le strade e torniamo dopo a correre anche noi lungo le notizie della giornata. A fra poco. Facciamo un'avvertenza sindacale: è immorale alzarsi a quest'ora. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta. Mattino. I già svegli. Ciao Luca, sono sveglio dalle 5, come tutte le mattine sono sveglio dalle 5, sono Alfredo da Napoli e arrivo 2 ore prima sul lavoro perché mi piace godermi il mattino e stare bene con il mattino, è una bella cosa. Sono sveglio perché non vedo l'ora di sentire Radio 24 e ascoltare te, soprattutto perché sei una trasmissione che mi piace molto. Buongiorno, sono già sveglia da un bel po' e queste sono le ore che io chiamo del pensatoio. Poi ragazzi, se dessimo retta al Santo Padre, noi conquisteremmo lo spazio pensando ancora e che il sole gira intorno alla terra. I boccaloni li credono perché vende speranza. Io mi sveglio ogni giorno all'alba e ti ascolto, Terese, per 3 motivi. Il fritto misto, i già svegli e per sentirti venir tagliato puntualmente alle 6:55. Più piazza alle 4, te l'ho già detto 10 volte, tutte le mattine, tutte 4, 4 e mezza, per venire in officina a piegare e tagliare della lamiera. Ho superato la crisi, no, non l'ho superata, comunque la stiamo superando. E stamattina non sono stato tagliato. Tiè. Allora, 800240024 per quando chiamerete dalle 8 in poi, quando arrivano i nostri valenti centralini. 349-238-6666 per i vostri messaggi. E poi questa santa segreteria, dove amo tremendamente messaggi come quello delle lamiere o di chi si sveglia per pensare. Siete il grande inventario del paese. 02 30 22 44 92. Fulvio, ci sei? Questa mattina vuoi consegnare un messaggio alla storia? Hai una grande possibilità. Ma nella maniera più assoluta no, insomma, non sono in grado, cioè ho lo stesso stato d'animo che aveva Pasolini quando ha fatto Uccellaccio Uccellini e ha aperto il film con una citazione, che era la domanda di un giornalista americano al presidente Mao, cioè, dove va l'umanità? La risposta era boh, la risposta del grande timoniere. Mao rispose boh, dai. Pasolini in questo è stato doppiato scrive, male. Succo di un'intervista di Edgar Snow, autore di un libro. E come no, Stella Rossa sulla Cina. Sulla Cina al presidente Mao, insomma. E quindi mi sento, quello che mi sembra, diciamo, singolare, trovandomi qui in Sicilia, a Palermo, in questo momento, che il candidato Cancelleri dei 5 Stelle, in una terra, diciamo, che avrebbe potuto offrire loro grandi opportunità, arranchi rispetto al vecchio stellone del mio amico Frisco. Tu dirai chi è Frisco? Non ne ho più. Come no, è Lino Micciche, ogni volta Gianfranco Micciche. Gianfranco, sì, scusa. Ecco Frisco, ecco che Frisco sia riuscito in questo capolavoro. Mi sembra meraviglioso, insomma. E questa è la dimostrazione che nessuna, diciamo, accusa di immoralità, moralità incide alla fine dei conti in questa meravigliosa terra che si chiama Sicilia, insomma. Allora, arrivano diversi messaggi. Uno ci ricorda ogni santi capre, Bruno, perché forse abbiamo detto io ho detto i morti. E vabbè, ci siamo sbagliati, ma era bello. Sono sbagliato. Vabbè, mi associo all'errore perché siamo qui di prima mattina desti. Ma invece una notizia tragica: in Sicilia per il giorno dei morti venivano fatti i cosiddetti pupi di zucchero. E invece ieri ho passato in rivista decine di bar qui a Palermo e non ci sono più pupi di zucchero, neanche più quelli. Perché ci stanno le zucche di Halloween. Sì, ma anche quelle, diciamo, non le ho viste più nelle pasticcerie dei quartieri nuovi. Però ti dico, un tempo erano paladini, dame, poi a un certo punto hanno fatto anche il calciatore del Palermo in forma di pupo di zucchero, ma neanche quello sono riuscito a beccare. E ti manca il pupo di zucchero? Enormemente, mi mancano le pistole, perché per il giorno dei morti, ripeto, ma iniziano prima, un tempo in questa città venivano regalate ai bambini, a noi bambini, delle pistole, tutti sparavano. Era il non specifico, diciamo, di quel giorno. Io addirittura, già grande, quando avessi 12 anni, rubai 500 lire a mia madre per andare a comprare una pistola che si chiamava Susanna 40, figurati, mi vergogno ancora adesso, solo a loro, solo in una circostanza. Ecco perché sei cresciuto così male. Le ragazze del bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta ci salutano. Grazie a voi che siete aperti e producete. Vedi che bello, perché poi dicono sempre: ma solo il nord si sveglia. Ma qua è pieno di gente che ci ascolta, che si sveglia in ogni dove, in ogni parte d'Italia. L'Italia di mattina, caro Luca. Sì, perché l'Italia di mattina è trasversale, è libera ed è intelligente. Questa è la sintesi che vogliamo fare. Fatemi sentire i gol della Roma. colpito dal pallone, ma attenzione perché è un assist, è 1-0 ed è 1-0 subito il Sharawi, subito il Sharawi, il faraone, secondo gol consecutivo, anzi secondo gol pazzesco consecutivo. Prova ad andare verticalmente, palla che filtra, attenzione al piazzato, 2-0, ancora il Sharawi sulla dormita difensiva del Chelsea, notte da faraone, 2-0 Roma. Adesso Perotti può puntare ancora, è l'uno contro uno, Perotti, Perotti, fino in fondo Perotti, 3-0 Roma. Allora, sono i tre gol della Roma ieri all'Olimpico contro una delle squadre più forti d'Europa. La Juve, va detto, ha pareggiato, che non è un brutto risultato, fra l'altro stava perdendo, però finalmente il calcio è sempre il simbolo di qualcosa, il complesso di inferiorità degli italiani in Europa sembra sciogliersi e si gioca così, a testa alta. Credo che il monte ingaggi del Chelsea possa essere 3-4 volte quello della Roma, eppure lo sport conosce anche il segno di Davide contro Golia. C'eri Fulvio davanti alla TV ieri? Ma nella maniera più assoluta, neanche Italia 94-3 vedeva presente. E invece sappi che dovrai forse rottamare il tuo televisore, ne parleremo dopo. Perché pare che per un cambio di frequenza 9 televisori su 10 in Italia diventeranno inservibili. Questa è la vera notizia su cui parleremo oggi. Te li immagini gli italiani al buio, nel blackout, senza la D'Urso? Babba Leo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.